selfish ke phela ka lififi ke thusa ke kere se ba jele di chelete nuka bekezela ba nkhele tsele gate a ke jika jiki ke ba lata straight ke pethaka mpa maka kono pa le face ba thoba ngitse ba tla botsa ka fisa go pethaka skill wa mpona ka makisa ngana ka ba ruta ke qualify a teacher gimme ka manyora tsonte ke no gora ba fana ka ba kha malibile ba hotlola love letter botsa government developer ka moskore kempe ba jele di chele ya ba setse ka di sente di grot mane di jola le mapente no lights era phela ka di kerese mushungu file le haela di kerese no lights era phela ka di kerese mushungu file le haela di kerese botata bo bo batla government ba bo solve ka mara parliament ba tsera advantage ka re ra batshaba ba jele le di chelete abana selo ba setse ka di sen bophelo politiki ba mpona ke popile ba mpotsa ka di deal life ya bolaya tlhokomela speed ke phela normal life ke tlile